in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi ci sono titoli misti, ma non troppo, perché sappiamo è il giorno del ballottaggio, quindi tanti giornali si concentrano sui molti italiani che andranno al secondo turno delle elezioni per amministrative per eleggere i comuni e le giunte comunali. Il Sole 24 Ore però, come è giusto aspettarsi, titola sulle banche venete, perché doveva esserci già ieri il Consiglio dei Ministri straordinario per varare questo decreto sul salvataggio delle due grandi banche venete di fatto fallite. È slittato a oggi, scrive il Sole 24 Ore, banche venete, oggi il decreto, limature su esuberi e bad bank. I due grandi temi sono appunto questi, cioè se Banca Intesa alla fine porterà avanti la sua offerta. Sapete che ha offerto un euro per avere però solo le attività positive di queste due banche, da qui il termine bad bank, cioè tutto quello che sono i crediti non esigibili e le altre passività devono essere in qualche modo accorpate in quella che viene chiamata appunto bad bank, cattiva banca, brutta banca potremmo dire, e lì ci deve essere l'intervento dello Stato, quindi è di fatto un bail in, cioè un salvataggio dall'interno. E qui è anche il tema dello scontro o comunque del dialogo abbastanza vivace con le autorità europee, perché in teoria questi sono puri aiuti di Stato, un salvataggio di Stato che secondo alcune interpretazioni delle regole europee non sarebbe possibile. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche la consueta lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, come ogni domenica. Il nostro collega di finanza si concentra su un titolo quotato che questa settimana è Italgas. E poi l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, che torna sul tema della corruzione. Sapete che un paio di settimane fa si è saputo che in Vaticano si sta studiando una sorta di, anche qui potremmo chiamarlo, decreto legge per definire, per scomunicare chi viene accusato in modo definitivo, viene condannato per corruzione. Bruno Forte torna sul tema: la corruzione, la menzogna che ruba il futuro ai giovani. E poi la domenica del Sole 24 Ore, come ormai sapete, siamo arrivati alla undicesima settimana di questa nuova domenica del Sole 24 Ore, nuova nel senso che nelle pagine di commenti trovate la rubrica Tavola con di Paolo Bricco, un lungo colloquio di fronte appunto a un pranzo o a una cena. Questa settimana è con Irene Enriquez, che è il numero uno della Zanichelli, una delle nostre case editrici più importanti, anche perché negli anni si è ritagliata un posto veramente di rilievo in tutto quello che è il mondo dei dizionari e delle enciclopedie. E poi invece il viaggio di Carlo Ossola in Europa, che continua, siamo arrivati anche qui all'undicesima tappa, e questa settimana è in Italia, a Reggio Calabria. Poi, siccome ieri il Sole 24 Ore non era in edicola perché venerdì, per le vicende che credo molti di voi conosciate della crisi economico-finanziaria del gruppo Sole 24 Ore che controlla il quotidiano, l'agenzia e naturalmente Radio 24, c'è stato uno sciopero dei grafici e dei poligrafici, quindi il giornale ieri non era in edicola, perciò Plus 24, che normalmente è in edicola al sabato, viene allegato oggi, e la copertina è dedicata alle valute. Le valute non sono un gioco da ragazzi, investimenti per i più esperti. Questa è naturalmente la copertina, poi all'interno ci sono tantissimi altri approfondimenti, però questo tema appunto di in un periodo storico in cui c'è grandissima volatilità tra le valute, di speculare, il Plus 24 avverte: attenzione, appunto, non è una cosa, non è un gioco borsistico o finanziario in cui improvvisarsi. Il Corriere della Sera titola sulla vicenda delle banche venete, e qui il focus è su quello che dicevamo, la parte di aiuti di Stato. Dal governo dovrebbero arrivare 7 miliardi, confronto appunto tra Roma, quindi il governo, Bruxelles, dicevamo appunto il fatto di ottenere un via libera dall'Unione Europea, e poi Banca Intesa che ha fatto questa offerta. in prima pagina anche i ballottaggi con un'analisi di Antonio Polito. Si vota per il ballottaggio in 111 comuni, la sfida tra le coalizioni di un tempo. Pensate che il primo turno erano 1.004, quindi insomma i ballottaggi più o meno un decimo del totale dei comuni nei quali si è votato 2 settimane fa. E poi un divertente Padiglione Italia di Aldo Grasso, la rubrica della domenica di Aldo Grasso, questa volta dedicato a Camilleri, che sapete ha fatto un discorso ad alcuni giovani universitari dicendo di non fidarsi dei politici, in particolare del PD e dei 5 Stelle, e Aldo Grasso dice: l'antipolitica vintage del papà di Montalbano. Ve lo leggo perché lo trovo abbastanza divertente. Insomma, Andrea Camilleri negli anni è diventato un po' un incriticabile, invece a volte anche lui, soprattutto quando fa l'opinionista e non lo scrittore, forse dice delle cose opinabili, o comunque insomma come tutte le parole di tutti sono opinabili. E Aldo Grasso scrive: come direbbe il commissario Montalbano, Andrea Camilleri si è insitato nell'agro. Nel siciliano artificiale dello scrittore significa inacidirsi, essere di cattivo umore. Forse si è semplicemente rotto i cabassissi. Sta di fatto che qualche settimana fa ha ricevuto a telecamere aperte un gruppo di studenti del liceo Empedocle di Agrigento, dove si è diplomato, e si è abbandonato al più acido pessimismo. Ha persino invitato i ragazzi a non credere ai Renzi o ai 5 Stelle perché, aperte virgolette, sono già cadaveri, già fuori dalla vostra storia e dal vostro avvenire. Teneteli lontani dal vostro avvenire, fatevelo voi. Chiuse le virgolette. Libero di pensarlo come meglio crede, ma forse Camilleri, rivolgendosi a giovani studenti, poteva fare qualche sforzo in più e andare oltre i cliché della politica come sinonimo di disonestà e della malmostosità. Che so, incoraggiarli, motivarli, spiegare loro qualche segreto della scrittura, della bellezza di creare mondi immaginari, come quello di Vigata, appunto, dove la dimensione politica è ovattata, affrontata con arguzia, fin troppo, secondo chi accusa i libri di Camilleri di manierismo con esiti di involontaria parodia. Ma no, l'universo di Camilleri durerà. La sua Vigata senza mafia sui libri e in TV sfiderà il tempo, perché è invenzione, è lavoro artigianale, è macchina dei sogni, è Catarella. Nelle sue storie non c'è astio sociale o cultura del no. Leggete Camilleri, ragazzi, non ascoltatelo. La Repubblica, anche in questo caso il titolo principale è dedicato al decreto che dovrebbe arrivare oggi nel Consiglio dei Ministri straordinario, governo e salva banche, i dubbi dell'Unione Europea e anche di Berlino. La fotonotizia è dedicata invece alla vicenda che avete sentito tanto anche nei GR, della ragazza di 26 anni arrestata a Voghera con l'accusa un'italiana di terrorismo internazionale. In prima pagina anche un richiamo all'intervista a Giorgio Napolitano, che ha parlato soprattutto di Stefano Rodotà, il giurista nonché ex parlamentare, nonché ex presidente dell'autorità che tutela la privacy, garante della privacy è stato per tanti anni. Il titolo dell'intervista fatta da Simonetta Fiori: con Rodotà amici anche nelle divisioni. In edicola con la Repubblica, come ogni domenica, L'Espresso, che credo per la terza o quarta domenica consecutiva ha una copertina dedicata allo scenario politico italiano. Il titolo di questa settimana è Pezzi da coalizione, il fantasma di Prodi, il PD, la sinistra divisa. Dopo il voto nelle città tornano di moda le alleanze, manuale per capire chi le vuole e chi no e cosa farà Renzi. Un po' di divinazione quindi da parte dell'Espresso. La Stampa, anche in questo caso scelta molto simile a quella della Repubblica, titolo principale dedicato alle banche, ultimo giorno per evitare i fallimenti, e qui viene messo in evidenza quel nodo esuberi di cui parlano anche gli altri giornali, con questa cifra: 600 sportelli da chiudere. E poi ancora una foto di questa ragazza, Lara Bambonati, che poi ha cambiato nome dopo la conversione all'Islam, e il titolo addirittura così enfatico: la coppia diabolica che sognava la jihad, perché Lara, che era originaria di Tortona, è sposata in realtà con un siciliano a sua volta convertito all'Islam, che è morto in un blitz in Siria. Il Messaggero: banche e il governo blinda l'accordo, una fotonotizia dedicata all'AFA Record con questa cifra del caldo percepito di 49 gradi, l'avete sentito anche nei GR, è successo a Ferrara. in prima pagina anche un titolo che non c'è sugli altri giornali, sulle tasse che incombono su Airbnb, il sito, l'azienda che sapete gestisce i soggiorni nelle case private. Scatta la tassa di soggiorno, decollano web tax e nuovi voucher, tutto all'interno della manovrina INA, per modo di dire, da 3,4 miliardi. Ci fermiamo un attimo per l'appunto anche per qualche informazione sul meteo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci manca ancora qualche pagina dei quotidiani, poi passiamo alle pagine interne. Intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o a SMS o WhatsApp, in particolare all'ascoltatrice che chiede che critica un po' la velocità con cui è stata liquidata la vicenda Fazio. Ci torneremo, ci sono molti, molti articoli. Fabio Fazio, naturalmente. E quindi dicevamo, la prima pagina dell'Avvenire, il titolo principale è dedicato al discorso che ha fatto ieri il nuovo presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, il cardinale Gualtiero Bassetti, che ha parlato della legge in discussione, che sapete sta avendo un percorso abbastanza accidentato, sullo ius soli. Secondo Bassetti è un dovere sostenere questa legge, questa nuova cittadinanza. Vi segnalo però la rubrica di oggi, che si chiama Al limite, di Marina Terragni, e sulla prima pagina dell'Avvenire. In questo spazio quotidiano si alternano sull'Avvenire per alcuni periodi, adesso in questo periodo appunto è Marina Terragni, e l'ho trovata bellissima quella di oggi. Si intitola Ricordati di me. Recupero un bel film dell'anno scorso, Genius, storia della feconda collaborazione tra lo scrittore americano Thomas Wolfe e il suo grande editor Max Perkins. Inquieto, sregolato, strabordante, crudele, Wolfe interroga angosciosamente il collega Francis Scott Fitzgerald. «Pensi che fra 10-100 anni si ricorderanno di me?» Una preoccupazione, quella di non essere dimenticati, che non ho mai capito del tutto. Quello che vorrei, semmai, è lasciare qualche piccola buona traccia da seguire, giusto qualche briciola di pane sul sentiero, sarebbe già molto. Che si facesse buon uso di quel poco che ho costruito, magari una nipote o bisnipote che portasse il mio nome, mi ci sono trovata abbastanza bene, e a cui piacesse una mia collana, sarebbe già tanto. Non che io non abbia paura, ne ho tanta, accidenti, ma so anche che dimenticarti di te non è solo un buon modo di morire, è anche il miglior modo di vivere. Sapere che da solo non sei niente, non combini niente, sciogliersi negli altri, auto-obliarsi da subito. Io non ci riesco, intendiamoci, ci riescono solo i santi, che paradossalmente, proprio in forza di questo, vengono ricordati per sempre. Ma non è nella nostra disponibilità. Se dovessi dirlo in due parole, non dimenticarsi mai degli altri, perdonare l'altro, come ha detto qualcuno, di essere un altro, è il solo modo per non scomparire del tutto, se proprio uno ci tiene. Prima pagina del giornale, a proposito della vicenda Fazio, per il giornale è la notizia di apertura: Renzi fa ricco Fazio e stanga i contribuenti. È un'interpretazione, perché in realtà ci sono anche dei retroscena secondo i quali Matteo Renzi sarebbe molto irritato da questa decisione del super compenso a Fabio Fazio, con questo cachet da oltre 11 milioni per 3 anni e passaggio a Rai 1. Però questa appunto è l'interpretazione del giornale. Vi segnalo anche un interessante, a questo proposito anche per rispondere all'ascoltatore che dice: banche venete, dove sono i responsabili del disastro? Penso in prigione, purtroppo no. Per dirne una, quella Zonin, che è stato per anni presidente della Banca Veneta, non soltanto non è in prigione, ma ha anche lasciato tutti i suoi beni, ha intestato tutti i suoi beni ai figli, quindi risulta per il fisco nulla tenente. Quindi questo articolo di Nicola Porro, un euro sì. Il riferimento è alla simbolica offerta di Banca Intesa per tutte le attività positive delle due banche, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Zero colpevoli, no. Appunto inizia in copertina e continua a pagina 3. È molto lucido e naturalmente anche molto, secondo me, deprimente questa vicenda delle due banche venete, di questo disastro che pagheremo di fatto noi, perché banca, come avete sentito e come probabilmente succederà, magari verrà offerto qualcosa di più di un euro da Banca Intesa, però il buco, che alcuni calcolano, ma è una stima ottimistica, in 7 miliardi, lo pagherà lo Stato, cioè noi contribuenti. La verità, un voto per formare la mucchiata, quindi qui il riferimento è alle amministrative di oggi, al voto in 111 comuni. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata alla vicenda della RAI, e l'interpretazione della verità è invece: la RAI silura Giletti e beatifica Fabio Fazio. Giletti, in realtà Massimo Giletti, ha rifiutato quello che la RAI gli offriva, che come vedremo su altri giornali non era poi così poco, però anche qui appunto si tratta di un'interpretazione della verità secondo la quale la nuova RAI di Mario Orfeo, che ha sostituito Campo dell'Orto, avrebbe fatto questo, cioè silurato Massimo Giletti e beatificato Fabio Fazio. Il suo compenso, per pagare questo compenso faraonico, sono necessari, ha fatto questo divertente calcolo la verità, 31.111 italiani. Libero, le banche ci strangolano, e quindi il riferimento è naturalmente alla vicenda delle banche venete. E poi anche in questo caso la fotonotizia invece è di Massimo Giletti in primo piano. La RAI è pura, il giornalista non allineato e senza agente. Massimo Giletti come campione della libera informazione, non so, comunque anche in questo caso naturalmente si tratta di una interpretazione. Il perché è pura, perché è vero che gli è stata offerta un'altra trasmissione, altre serate, però l'Arena, il programma della scorsa stagione, è stato di fatto chiuso, cioè non è stato annunciato nei palinsesti del prossimo anno, anche perché ricordiamo quest'altra anomalia, già che ci siamo, perché a me fa sempre molto effetto, che ancora prima della chiusura delle scuole la RAI di fatto chiude, tutti i programmi chiudono e rivediamo tutti a settembre, quindi vacanze più lunghe delle scuole italiane, che già sappiamo sono tra le più lunghe d'Europa, più lunghe di quelle del Parlamento, perciò insomma poi c'è tempo appunto per fare tutte queste belle discussioni sui compensi e sulle trasmissioni, perché intanto ci sono i palinsesti estivi, che sono sostanzialmente repliche di altri programmi. Il Fatto Quotidiano: banche venete, il no di Padoan ai fondi ci costa quasi 13 miliardi. Qui anche in questo caso è un'interpretazione della vicenda. Ci sarebbero state altre possibilità di salvare queste banche. Si è deciso, ricorderete la vicenda del Fondo Atlante, si è deciso di aspettare sostanzialmente, e adesso, questa ripeto, è l'interpretazione del Fatto Quotidiano, che scrive anche Intesa brinda. Un'intervista a Freccero, che naturalmente dà l'ennesima intervista. Carlo Freccero fa parte del CDA della RAI, è in aperta polemica con il nuovo direttore generale. In questa intervista, che il Fatto Quotidiano intitola "Orfeo imbavaglia chi dà fastidio anche Giletti", si dichiara appunto molto, molto contrariato dalla piega che ha preso i palinsesti della prossima stagione e i compensi. Cosa succede in città? Il titolo del Manifesto, con il riferimento naturalmente al secondo turno delle amministrative, la sfida più delicata a Genova. E quindi citiamo proprio il titolo del Secolo XIX, il quotidiano di Genova: ballottaggi, occhi puntati sulla Liguria, perché oltre a Genova, il test di Genova, dove sapete c'era stato l'esclusione dal ballottaggio del candidato del Movimento 5 Stelle, che era stato molto sottolineato, non fosse altro che perché Genova è la città natale dove vive il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Però c'è anche La Spezia, che è un'altra città interessante da tenere d'occhio. Veniamo alle pagine interne dei giornali, e dal Sole 24 Ore vi segnalo un approfondimento sulla copertina di Imprese e Territori, che è per la precisione la pagina 7 di oggi del Sole 24 Ore, di Laura Cavestri sugli Stati Uniti, su quanto valgono gli Stati Uniti come mercato per i prodotti italiani. E da qui si capisce anche perché è così delicata la questione delle eventuali misure che Donald Trump, l'amministrazione di Donald Trump, dovesse decidere come protezionismo. Il mercato degli Stati Uniti vale 20 miliardi. I nostri migliori prodotti, scrive Laura Cavestri, resistono alla prova del protezionismo a stelle e strisce. Per ora, naturalmente, bisogna aggiungere, perché appunto è un po' non è ancora chiarissimo come evolveranno le politiche commerciali degli Stati Uniti. La consueta pagina di Sport e Business della domenica, dedicata alla mia amata Coppa America, che siccome si sta svolgendo alle Bermuda e non partecipano barche italiane, perché a un certo punto c'era stata un'iniziale partecipazione di Luna Rossa, ma poi Patrizio Bertelli, che è oltre a essere l'amministratore delegato del gruppo Prada, era anche l'animatore naturalmente di questa sfida in Coppa America, poi si è sfilato in polemica come moltissimi altri sulle nuove regole della Coppa America. Intanto probabilmente vincerà la Nuova Zelanda, ma al di là di chi vincerà, la pagina del Sole 24 Ore, come è nell'impostazione di questa pagina di Sport e Business, analizza i costi, ma anche il giro d'affari di questa competizione. Alle Bermuda, i voli milionari dei catamarani dell'America's Cup, perché sapete che nelle ultime edizioni non sono più delle barche monoscafo quelle che partecipano alla Coppa America, ma sono questi catamarani velocissimi. Costano in media, pensate, 35 milioni. Da New Zealand, sfida finale a Oracle, quindi appunto i neozelandesi potrebbero battere gli attuali detentori della Coppa, i cosiddetti Defender, che sono appunto gli americani di Oracle. Pagina 18 trovate a tavola con, dicevamo, Irene Enriquez, raccontata da Paolo Bricco, il numero uno di Zanichelli. A pagina 19 il viaggio di Carlo Ossola, con questa tappa a Reggio Calabria. In Calabria, nella culla della tradizione greca, a picco sulla storia, qui le associazioni sanno coltivare e ricordare la meraviglia. Eccolo qua il caso Fazio, lo trovate per esempio a pagina 7 del Corriere, perché le polemiche continuano. La RAI e il caso Fazio, ieri c'è stato, lo avete sentito anche nei GR, l'intervento di Roberto Fico, che è un deputato del Movimento 5 Stelle ma anche presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, ha parlato di scandalo per quanto riguarda il compenso deciso per Fabio Fazio. Vi segnalo il retroscena di Paolo Conti, il direttore generale è soddisfatto, due punti, così l'azienda guadagna in pubblicità. E secondo me uno dei punti è proprio questo, cioè la RAI è un'azienda pubblica, la paghiamo, la sovvenzioniamo noi con il canone, non basta mai questo canone, quindi bisogna attirare pubblicità. Ma siamo tutti così contenti di avere così tanta pubblicità sulla RAI perché così possiamo pagare Fabio Fazio? O meglio, non si capisce se viene prima l'uovo o la gallina: Fabio Fazio porta pubblicità e quindi bisogna pagarlo tanto? Forse qualcuno gradirebbe meno pubblicità e un compenso anche minore a Fabio Fazio, che poi, se volesse, siccome ha minacciato più volte di andarsene da qualche altra parte, escludendo Mediaset, che non ha mai espresso il desiderio di averlo nella sua scuderia, tutto da vedere che Urbano Cairo della 7, terzo polo, gli avrebbe concesso un compenso di questo genere. Ci fermiamo però un attimo per il traffico. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ancora grazie agli ascoltatori che mandano messaggi e a Ale da Brescia, che mi dice di informarmi prima di parlare perché le vacanze delle scuole italiane, non scritto maiuscolo, sono tra le più lunghe in Europa. Invito invece anche Alessandro a informarsi, ci sono molti siti, li ho guardati durante la pausa, e insieme a Spagna e Portogallo confermo, in Italia ci sono le vacanze più lunghe, si va dalle 12 alle le 13 settimane contro le 7-8 di della maggior parte degli altri paesi. In ogni caso uno può pensare che sia giusto, che sia sbagliato. Sappiamo che con i cambiamenti sociali è anche difficile per i genitori trovare il modo di occupare i propri figli per un periodo così lungo di assenza dalle scuole, ma è un tema che meriterebbe altri approfondimenti. E dicevo, la prima pagina dell'Avvenire è dedicata all'intervento del nuovo presidente della CEI, che dice l'importanza della legge sullo Ius Soli. Il sondaggio settimanale di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera spiega che in realtà in 6 anni le opinioni si sono rovesciate, la maggioranza degli italiani è contraria allo Ius Soli. Nel 2011 erano i favorevoli, erano il 71%, oggi che la legge è quasi, insomma, sta diventando molto più concreta la possibilità di approvare questa legge, i favorevoli sono scesi al 44%. E poi un articolo, non so, non mi convince fino in fondo, però giudicate voi, a pagina 25 del Corriere, Ti amo bruttone, dedicato a questi bizzarri concorsi definiti così dagli stessi organizzatori di bruttezza dei cani. Io come si possa già credo sia, non so, a me sembra sempre improprio definire brutto un qualsiasi essere vivente, comprese piante, cani, gatti, men che meno gli esseri umani naturalmente, farlo con i cani. Comunque in ogni caso, Ti amo bruttone, e ci sono le foto di questi cani che vengono definiti brutti, a me sembrano semplicemente un po' bizzarri tutt'al più. La Repubblica, lo fanno anche molti altri giornali, ma La Repubblica lo fa graficamente, forse con la chiarezza maggiore, riprende un articolo del New York Times che ha parlato di tutte le bugie dette da Donald Trump, quindi un fact checking, la traduzione e anche l'introduzione a cura di Federico Rampini. Il New York Times raccoglie le bugie di Trump, ma ormai nessuno ci fa più caso. Passiamo però ai supplementi domenicali, perché come sempre il tempo è tiranno, e iniziamo dalla domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola La Patria, e parte da una citazione di Don Lorenzo Milani, anche perché domani, 26 giugno, ricorrerà il mezzo secolo dalla morte appunto di Don Lorenzo Milani. E la citazione è questa: se voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Don Lorenzo Milani, luminosa figura di sacerdote, educatore e scrittore, la cui grandezza è brillata, come spesso accade ai profeti, solo dopo la sua vita. Il pellegrinaggio di Papa Francesco nella sua parrocchia di Barbiana martedì scorso ne è la prova più netta. Le sue pagine sono sempre forti e incisive, riescono ancora oggi a artigliare la superficialità, la banalità e la volgarità, e a offrire comunque provocazioni necessarie. È ciò che accade anche nelle righe sopracitate. Tratte dall'Obbedienza non è più una virtù, un testo che provocò aspre reazioni, come altri suoi scritti. Don Lorenzo non faceva altro che riproporre il Vangelo senza glossa, nella sua purezza tutt'altro che retorica e predicatoria. In questo caso colpiva ogni tentazione di razzismo, di grettezza, di egoismo. In filigrana alle sue parole scorre la sequenza delle beatitudini evangeliche che Cristo ha destinato ai poveri, ai miti, ai giusti, ai perseguitati, agli ultimi della terra. La voce di Don Milani, per certi versi, sembra risuonare oggi in quella di Papa Francesco, che ci costringe a non girare la faccia dall'altra parte quando incontriamo i volti sgradevoli degli umiliati e offesi di questa storia contemporanea. E ancora grazie agli ascoltatori. Mi ricordo un ascoltatore che forse Fazio avrebbe potuto anche andare da Sky, credo che non fosse mai stata nominata questa possibilità, ma forse sì, comunque l'offerta non è arrivata quella della Rai, che gli ha praticamente triplicato il compenso. Torniamo alla domenicale, è arrivato al numero 33 il supplemento di 4 pagine dedicato ai lettori più giovani. La copertina di oggi, di Giulio Busi, Praga magica con il golem. Lo spunto è un libro bellissimo con disegni, come spesso accade per i libri per bambini, disegni altrettanto belli, uno lo vedete pubblicato sulla copertina. si chiama appunto questo titolo L'ombra del golem. La storia è di quella di Zelmira, bimba curiosa, figlia di un alchimista che gira per Praga. Una famiglia difficile, c'è un cattivo che imperversa. Nel ghetto incontra un rabbino sapiente che attraverso un gigante d'argilla sconfigge il male. La lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è una fotografa, Lisetta Carmi, e dall'interno vi segnalo un articolo molto interessante su il tema delle traduzioni, perché a 50 anni dalla pubblicazione di Cent'anni di solitudine di Marquez viene ritradotto e quindi si può uno spunto che Ida Bozzi raccoglie per confrontare la nuova traduzione di Ilide Carmignani con la traduzione di 50 anni fa di Beniamino Dal Fabbro e vedere come appunto tradurre forse un po' tradire o forse no, però come davvero ci possono essere delle grandi differenze di interpretazione della lingua originaria da parte del traduttore. Libri anniversari, visto che abbiamo detto domani 26 giugno, 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, ma invece il 28 giugno, mercoledì, 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello. Qui il titolo, Sei personaggi in cerca di Pirandello, il titolo naturalmente è un riferimento a uno dei libri, delle pièce più famose di Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore, e qui appunto sei intellettuali scrivono un ricordo, una visione personale di questo grandissimo intellettuale Luigi Pirandello, grande autore teatrale ma anche scrittore. Robinson e il supplemento della Repubblica dedicata ai viaggi, visto che in estate auspico veramente a tutti di viaggiare, magari anche solo con la mente leggendo dei libri. In ogni caso il titolo, Se una notte ed è stato un viaggiatore. I viaggi sono appunto, scrive Robinson, anche avventure letterarie. Vi proponiamo qualche itinerario del presente e del passato per visitare luoghi molto speciali. E poi la segnalazione di una bella mostra a Brescia su Mimmo Paladino qui a Milano qualche anno fa fece anche una bellissima scultura, una sorta di installazione davanti a Palazzo Reale che poi venne anche vandalizzata, ma in ogni caso questo maestro di quella corrente che viene definita transavanguardia viene celebrato a Brescia con una mostra diffusa, cioè tante delle opere si trovano appunto in giro per la città, un percorso in 70 opere che dialoga con gli spazi interni ed esterni della città. Sempre dall'ultima segnalazione da Robinson della Repubblica, le interviste straparlando di Antonio Gnoli con sempre il bel ritratto di Riccardo Mannelli. Questa settimana l'intervista è Ernesto Galli della Loggia, che è uno storico, un giornalista, scrive spesso sul Corriere della Sera. Il virgolettato è: ho voluto fare lo storico perché non ho avuto abbastanza coraggio per fare il politico. Il mio mestiere consiste nel farmi domande sul mondo, e potremmo aggiungere anche nel darsi molte risposte, perché più che in questa fase della sua vita, più che un giornalista nel senso più ampio del termine, è un opinionista, cioè spesso scrive degli editoriali più che degli articoli o delle inchieste, quindi dà delle risposte più che porsi delle domande. O meglio, dà delle risposte a domande che si è posto. Vi segnalo l'ultima segnalazione per oggi da Macro, il supplemento del Messaggero, non solo domenicale, ma le pagine culturali del Messaggero. In questa settimana è una lunga intervista, un lungo articolo di Filippo Laporta, un frutto di un incontro con Marco Ferrante, giornalista e scrittore, arrivato a Roma 22 anni fa, innamorato di Roma, però anche molto critico, dice: ho assistito al suo progressivo deterioramento, dalla Fontana di Trevi alle bancarelle in Via dei Baulari, la città sembra risucchiata in un sud sciatto e disordinato. Lui comunque è originario di Martina Franca, quindi diciamo parla appunto da uomo del sud. L'iniziativa dei cittadini potrebbe accompagnare la rinascita, e ci sono naturalmente alcune foto e anche questo tema del decoro. Sapete per esempio che il sindaco di Roma Virginia Raggi sta pensando a un ordinanza per vietare i bagni nelle fontane. Sembrerebbe una cosa insomma a cui si dovrebbero pensare da soli i turisti romani, in realtà forse ci vorrà un'ordinanza. Era però, come vi dicevo, l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Paolo Corleone in regia, un grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che avete mandato dei messaggi. Buona domenica da Giulia Crivelli.